Sura dei cavalli da guerra che si lanciano alla carica, capitolo 100° del sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 11 ayat ed è scesa dopo la sura 103, all'Asr. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e il clementissimo, io, Allah, lo giuro sui cavalli da guerra che ansando si lanciano alla carica, che fanno sprezzare scintille dal suolo colpendolo con gli zoccoli, che irrompono nel mattino in territorio nemico e, lasciandosi dietro le nuvole di polvere, si addentrano in esso, verso il centro, compattamente, a squadroni serrati. In verità l'uomo è certamente ingrato verso il suo Signore e in verità certamente egli di questo fatto sarà testimone. In verità egli è certamente fortissimo per l'amore dei beni materiali. Non lo sa che quando i sepolcri saranno svuotati di quello che contengono e ciò che sta nei petti sarà reso manifesto, in verità quel giorno il loro Signore sarà certamente informatissimo di loro?